24 mattino estate con Irene Zerbini. Ed è il 4 agosto, nonostante il traffico, mai visto Milano così trafficata alle 6:30 del mattino. Buona giornata a tutti. Oggi ci concentreremo in 24 mattino sui nuovi poveri che avanzano. Già da tempo si denunciano tassi di indigenza in aumento, soprattutto in fasce sociali e di reddito che un tempo non chiedevano di accedere a servizi di assistenza, servizi di accoglienza. Si parlerà dunque di quanto stanziato e soprattutto di quanto tagliato nella manovra finanziaria per le politiche sociali. Con i nostri ospiti, con noi ci sarà anche Irene Tinagli, editorialista della Stampa, economista, esperta di innovazione, docente all'Università Carlos III di Madrid. Ma tutto questo alle 8:30, parteciperete anche voi con gli sms al 349-238-6666 con le vostre osservazioni e le vostre domande, o al numero verde direttamente per chiamare in diretta 800 24 00 24. E 16 minuti dopo le 7 è arrivato il momento della rassegna stampa. In primo piano. Ancora buona giornata all'eroica Giulia Crivelli. A che ora del mattino comincia a leggere i giornali? Alle 5:15, 5:30, con il corriere che arriva sulla porta di casa, quindi mentre bevo il caffè c'è quello. Non diciamolo, potrebbe diventare fonte di ispirazione per qualcuno, una richiesta costante. Comunque Giulia, in primo piano questa mattina. Tra l'altro, mentre parlavi della questione sociale mi è venuto in mente, perché poi non me lo sono portato, ma sulla prima pagina del Riformista c'è un articolo letto di Cinzia Leone che spiega che secondo i calcoli dell'Istat solo 33 bambini su 100 oggi potranno, in quest'estate, potranno permettersi di andare in vacanza, gli altri dovranno trovare cose alternative in città, quindi si collega a quello che dicevi tu. Per il resto naturalmente tutti i quotidiani riprendono l'attesissimo intervento di ieri di Silvio Berlusconi a mercati chiusi alle Camere, e ci sono tantissimi commenti. Devo dire il sentimento dominante è quello di delusione, ci si aspetta forse qualcosa di più e non è stato così. Ti lascio alla tua lettura e ci ritroviamo più tardi. Bene, allora dicevamo, è anche oggi un'uniformità dei titoli, l'argomento è quello, è l'intervento di Silvio Berlusconi ieri al Parlamento. Ha fatto un lungo discorso, poi sono intervenuti anche i rappresentanti dell'opposizione, e cominciamo dal Sole 24 Ore perché, come si chiedeva, come ci si aspettava, l'argomento principale dell'intervento del Premier Silvio Berlusconi è stata l'economia, la situazione economica italiana e mondiale. Il titolo del Sole 24 Ore è un virgolettato di Berlusconi: fa bisogno zero da qui a fine anno. Quello che ha detto Berlusconi, spiega il Sole 24 Ore, che ci deve essere un patto con le parti sociali per la crescita e subito la delega fiscale. Tra l'altro proprio oggi è appunto previsto l'incontro con le parti sociali, cioè Confindustria e i sindacati. Prosegue sul Sole 24 Ore, ve lo ricordo anche oggi, le quattro serie di approfondimenti che il Sole 24 Ore fa ormai da 10 giorni, che dureranno alcune fino alla fine di agosto, alcune fino alla fine di settembre. C'è Tutto Risparmio, ogni giorno un approfondimento per le famiglie. Oggi ci si dedica ai conti correnti, con tutti gli accorgimenti per evitare di andare in rosso. Poi c'è lo speciale sulla manovra, Tutto Manovra. Oggi c'è un approfondimento sulla giustizia, perché sappiamo che le lunghezze della giustizia pesano sui cittadini e sulle imprese. E poi per il manuale anticrisi, la puntata di oggi di Fabrizio Galimberti, globalizzazione, prodotti low cost dei paesi emergenti a prezzi da saldo, soprattutto con il ruolo di internet che vale ha questo ruolo di proporre prodotti a costi minori sia per le imprese, cioè il cosiddetto B2C, business to consumer, sia per i consumatori, cioè il B2B, è il contrario in realtà, business to consumer è il business su internet, l'e-commerce per i consumatori, B2B, business to business, l'e-commerce usato per le transazioni tra imprese. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo due editoriali, ce ne sono moltissimi oggi, perché oltre a riportare, a riassumere quello che Berlusconi ha detto ieri alle Camere, naturalmente si sono scatenati i commentatori. Sul Sole 24 Ore c'è Stefano Folli, il titolo del suo commento è "L'urgenza della realtà, l'obbligo di cambiare passo". Vi leggo le prime righe e poi continuo a pagina 2. Scrive Stefano Folli: è famosa l'ironica frase di Bertolt Brecht secondo cui se il comunismo non va bene per il popolo, bisogna cambiare il popolo. Ieri pomeriggio in Parlamento c'è stato un momento in cui il Presidente del Consiglio è sembrato echeggiare Brecht. Ha quasi detto in sostanza: se i mercati non vanno bene per l'Italia, bisogna cambiare i mercati. Questo perché il nostro sistema è solido e affidabile e chissà perché i mercati non se ne rendono conto. Del resto, ha aggiunto il segretario del PDL Angelino Alfano, sulla stessa lunghezza d'onda non sono i mercati che possono fare o disfare i governi. Gian Maria Grospietro invece si concentra sulla parte più strettamente economica. Il titolo del suo commento è "L'apertura alle parti sociali porti a misure concrete". Scrive Gian Maria Grospietro, e l'intervento continua poi a pagina 6. Nel suo intervento di ieri alla Camera, il presidente Berlusconi aveva di fronte a sé due platee: quella fisica dei parlamentari che lo ascoltavano dal vivo e quella virtuale degli operatori finanziari mondiali. La seconda era quella che contava. Le sue inquietudini, le pesantissime conseguenze che esse stanno determinando sui conti pubblici italiani e sulle nostre istituzioni finanziarie erano il vero motivo del suo intervento in aula, che altrimenti non avrebbe avuto luogo. Era necessario rassicurare i mercati che a modo loro, cioè vendendo, avevano dimostrato di non ritenere sufficienti le misure contenute nella prima parte della manovra, quella dedicata al rigore della finanza pubblica. Gian Maria Grospietro comunque conclude con un'apertura di credito anche alle misure del governo. La situazione è difficile, quello che Gian Maria Grospietro dice: il tempo comunque è poco, adesso agli annunci devono assolutamente seguire i fatti. Passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Berlusconi: paese solido, anch'io in trincea. Questo è il titolo scelto dal Corriere della Sera, che ha poi un editoriale di Sergio Rizzo, "Le attese deluse". Anche qui ve ne leggo solo una parte. Quando già un pezzo della manovra approvata un mese fa è evaporata con l'aumento vertiginoso degli interessi sui nostri titoli di Stato e lo stesso Berlusconi ha lasciato intendere che si dovranno fare interventi sul fabbisogno nell'ultima parte dell'anno. Insomma, il peggiore segnale per gli speculatori, ma anche per un paese, oggi migliore di chi lo dirige, che in questa situazione meriterebbe dalla classe politica una risposta ben diversa. Non domani. Adesso, prima che il mercato, quello stesso mercato che Berlusconi, come si è premurato di ricordare gli stesso alla Camera, conosce bene, avendo tre aziende quotate, ci spinga nel baratro. E poiché Sergio Rizzo è coautore, insieme a un altro editorialista del Corriere della Sera, Gian Antonio Stella, di tanti libri, uno su tutti, quel famoso La Casta, vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera anche un intervento di Gian Antonio Stella sul tema che abbiamo già toccato ieri, delle super vacanze che si sono autoconcessi i nostri parlamentari. Scrive Gian Antonio Stella: ponti e vacanze, record degli onorevoli. Così comincia il suo articolo. Uffa, la crisi planetaria. Travolti da un'ondata di proteste, letteracce, ironie, commenti, moccoli e invettive, i furbetti del Pellegrino hanno dovuto fare retromarcia. Invece di 5 settimane e mezzo di vacanza ne faranno solo 4 e mezzo. Vi leggo una parte dell'articolo che continua poi a pagina 39. E scrive Gian Antonio Stella: decisione saggia, meglio tardi che mai. Quello che stupisce è lo stupore di quanti proprio non si aspettavano il sussulto di indignazione dei cittadini. A loro parziale attenuante va detto che per decenni deputati nazionali e regionali sono stati abituati a pigliarsela comoda. Basti ricordare la sosta invernale più lunga della storia, quella dell'Assemblea regionale siciliana, decisa agli sgoccioli del 2001. Dopo essere arrivata stremata al 21 dicembre, avendo lavorato con febbrile solerzia quasi 2 ore alla settimana, senza manco riuscire a varare il bilancio, l'Assemblea regionale siciliana aveva deciso di aprire la strada al ponte di Messina con uno spettacolare ponte virtuale, cioè questo ponte che durò 52 giorni. Sullo stesso argomento, questa volta anticipiamo un po' la prima pagina del Foglio, che in generale guardiamo un po' più tardi, perché c'è un intervento, un articolo sulla prima pagina del Foglio, il quotidiano diretto da Giuliano Ferrara, un quotidiano molto agile perché è sostanzialmente un quotidiano di opinione e non di cronaca. L'articolo di Annalena Benini si chiama "Vacanze matte", ve ne leggo soltanto l'ultima parte. L'elettore moderato, messo a dura prova dal traffico, dalle zanzare, da una scottatura sul collo presa mettendosi al sole alle 2 ore del pomeriggio con olio d'oliva per fare in fretta, dalla rata del mutuo che d'estate purtroppo non si autoannulla, aperta parentesi, per la classe dirigente si chiama mutuo una forma di prestito piuttosto diffusa a interesse fisso variabile che la gente normale spesso chiede per comprare una casa, passando di solito il resto della vita a maledirlo e a pagarlo. Bene, scrive Annalena Benini, l'elettore moderato rischia di diventare meno moderato, diciamo pure abbronzato di rabbia, disposto a bruciare anche le ferie dell'anno prossimo per accompagnare i 200 parlamentari nel pellegrinaggio in Terra Santa con i forconi. Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, invece, che ieri non abbiamo letto per mancanza di tempo, ma era interessante perché martedì c'era stato un editoriale molto duro di Marco Travaglio contro Nicchi Vendola, perché Nicchi Vendola aveva appena stretto un accordo con quella Fondazione San Raffaele che è a rischio fallimento. Ieri sul Fatto Quotidiano c'era la replica di Nicchi Vendola e la controreplica di Marco Travaglio. Trovate comunque tutto su internet, sul sito del Fatto Quotidiano. Oggi l'ultimo editoriale di Marco Travaglio, che spiega lui stesso poi andrà in vacanza, anche se dice magari tornerò, farò delle capatine, scriverò ancora qualche editoriale, è dedicato alla legge elettorale. Ve ne leggo un pezzettino, è molto interessante perché comunque è legato a questa cosa delle vacanze e al clima di antipolitica, viene chiamato così, alla rabbia dell'elettore moderato contro la casta. In realtà però manca talmente poco tempo, una manciata di secondi alla pausa per il meteo, che forse visto che comunque lo trovo un pezzo abbastanza interessante, ve lo leggo poi subito dopo la pausa. Si chiama Ultima chiamata, l'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano di oggi, ed è appunto, come vi dicevo, l'ultimo prima che Marco Travaglio vada in vacanza anche lui. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Stavamo scorrendo le prime pagine dei giornali, tutte dedicate alla cronaca e ai commenti dell'intervento di ieri di Silvio Berlusconi alla Camera. E ci sono anche, abbiamo visto articoli sulla questione delle vacanze del Parlamento che erano state annunciate fino al 12 settembre, poi in realtà c'è stata una piccola marcia indietro, e queste critiche alla casta. E quindi volevo leggervi una parte dell'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, proprio dedicato a questo, cioè a quel sentimento di antipolitica e di anticasta che si sta diffondendo. Scrive Marco Travaglio: un'occasione d'oro per scrollarsi di dosso la puzza di casta i parlamentari ce l'avrebbero. Il referendum elettorale per cancellare il porcellum di Calderoli e Casini e riportare in vita il Mattarellum, che aveva mille difetti, ma almeno consentiva agli elettori di scegliersi direttamente, collegio per collegio, con l'uninominale, il 75% dei parlamentari. Il quesito porta le firme di Di Pietro, di alcuni big democratici, Bindi, Veltroni, Parisi, e di Migliore, di Sel. Conclude Di Pietro, che spiega che molti parlamentari hanno aderito. Che aspettano i Fignani ad aderire e darsi da fare per sottrarre a PDL e Lega i voti di tanti italiani di destra schifati da una legge che è la quintessenza della casta, e l'UDC e SEL, ma soprattutto a che gioco gioca il PD? Le feste estive dell'Unità, o come diavolo si chiamano, sono il luogo ideale per raccogliere le firme, ma l'astuto Bersani, non contento di aver boicottato e ignorato i referendum sul legittimo impedimento, acqua e nucleare, salvo cavalcarli quando si rischiava di vincerli e metterci il cappello quando si sono vinti, sta ripetendo quel tragico errore per tenere insieme il PD, diviso, tanto per cambiare, su 5-6 posizioni. Da Lema all'inseguimento di Casini tifa proporzionale, il maggioritario Veltroni, che era addirittura fra i promotori, ha cambiato idea. Come sempre è pro, ma anche contro. Ora però i casi sono due: o il PD dà una mano di pietra a Parisi e allora le firme si raccolgono, il referendum si fa, il quorum si raggiunge e il Parlamento di nuovo eletto dal popolo recupera un briciolo di autorevolezza, oppure crolla tutto e chi finisce sotto le macerie è bene che ci resti. Dalla Repubblica il titolo di apertura, un virgolettato di Berlusconi: la crisi c'è ma siamo solidi. E poi editoriale anche qui molto critici, vi cito quello di Scalfari, il cavaliere ai mercati tra Scilla e Cariddi, e poi quello di Tito Boeri, un economista del lavoro, parole in libertà. Berlusconi sulla stampa, Berlusconi due punti, il paese solido, anche qui due editoriali non lusinghieri, uno di Marcello Sorgi, un copione all'ennesima replica, e quello di Massimo Gramellini, il cavaliere senza benzina. Vi segnalo la prima pagina di Libero, Silvio sfida i mercati, anche Libero ammette, discorso senza sorprese. Berlusconi alla Camera ricorda i punti di forza economici del paese e le riforme in cantiere. Forse non basterà fermare subito la speculazione, però andava fatto e c'è la sponda di Casini. Dalla prima pagina di Libero vi segnalo l'intervento di Franco Bechis, vice direttore, che scrive: servirà il discorso fatto in Parlamento ieri da Silvio Berlusconi per mettere alla speculazione quella ormai necessaria museruola? Forse oggi stesso i mercati ci diranno di no. E forse ancora nei giorni successivi la musica sarà la stessa. Agosto è un mese d'oro per chi vuole fare soldi rapidi e per più di un'estate da 20 anni a questa parte l'Italia ha dovuto farci conti. Anche dovesse andare così, come stava andando, l'intervento del Presidente del Consiglio ieri davanti alle Camere non è stato inutile. Per prima cosa è servito a dire ai mercati che un governo c'è. Questo scrive Franco Bechis. Vittorio Feltri sul Giornale, un po' sulla stessa linea, il Giornale titola: Berlusconi due punti ci salveremo, ma la sinistra rifiuta un patto per l'Italia. Il riferimento è all'intervento di Bersani, molto critico rispetto a quelle che potevano essere delle aperture di Berlusconi all'opposizione. Scrive Vittorio Feltri, direttore del Giornale: il problema è capire se la causa dei nostri guai siano le turbolenze finanziarie oppure se siano i guai a provocare quelle turbolenze. La prima ipotesi avanzata dalla maggioranza, la seconda dall'opposizione. Il cavaliere però vede il bicchiere mezzo pieno, i suoi avversari invece lo vedono mezzo vuoto. Il cavaliere desidera riempirlo e ha detto come. Dalla prima pagina del Messaggero: Berlusconi crisi, il paese è solido. E Berlusconi, scrive il Messaggero, lancia un patto per la crescita, Bersani gli risponde si dimetta. Casini invece dice governo di armistizio. L'editoriale è Paolo Pombeni, la risposta che non c'è stata. Chi si aspettava da Berlusconi un cambio di passo è rimasto profondamente deluso. Quello che avrebbe dovuto essere in qualche misura un discorso di svolta è stato un intervento quasi ragionieristico, letto senza passione, abbastanza banale nei contenuti. Ora vi cito la prima pagina del Manifesto, che ha sopra il nome della testata questa definizione che sicuramente ad alcuni appare molto anacronistica, che è quotidiano comunista. Ve lo cito perché innanzitutto, vabbè, come sempre ha un titolo montato con una foto molto grande, è sempre molto fantasiosa e creativa. La prima pagina del Manifesto, c'è una foto di Berlusconi che però inquadra soltanto gli occhi e il titolo è Le borse sotto gli occhi, con naturalmente un doppio senso in questo: le occhiaie di Berlusconi, che peraltro è un problema che affligge credo il 95% di noi, e il riferimento ai mercati finanziari. La cosa interessante però è l'intervento di Valentino Parlato, che non si concentra tanto sulla delusione del discorso di Berlusconi, ma sulla delusione la delusione venuta dal discorso di Bersani. L'editoriale di Valentino Parlato, che è tra i fondatori del Manifesto ed è in questo momento il presidente del consiglio di amministrazione del Manifesto, si intitola Ma la sinistra non c'è. Ve ne leggo una parte. Il discorso di Berlusconi è stato assolutamente elusivo, ma ugualmente elusiva è stata la replica di Bersani. Non basta accusare Berlusconi dei fallimenti che sono sotto gli occhi di tutti, che non si ha l'intelligenza e la forza di proporre un'alternativa che non sia solo la richiesta di elezioni anticipate. Il PD dovrebbe avere la forza e l'intelligenza di proporre un'alternativa di governo. Gli esiti del referendum e delle recenti elezioni amministrative dovrebbero incoraggiarlo. C'è una società che di Berlusconi ha cominciato a stancarsi, ma a questa società bisogna offrire serie proposte per uscire dalla crisi e dai fallimenti bancari, per combattere l'attuale decrescita e la crescita dei disoccupati. Dire che Berlusconi è cattivo, che se non si propone nulla di buono, serve solo a far continuare, e sempre in peggio, la crisi del paese. Insomma, c'è una seria crisi della politica e, aggiungerei, della sinistra, detto appunto da Valentino Parlato. E sempre per restare in tema di voci sempre del centro-sinistra, che sono però molto critiche, come forse dovrebbe sempre esserci questo esercizio di autocritica. Ecco, per restare su questo tema, vi segnalo dal Giornale un'intervista a Sergio Chiamparino, ex sindaco di Torino, che ora ha lasciato il posto a Piero Fassino, che a sua volta è un ex segretario del Partito Democratico. L'intervista a Sergio Chiampiarino viene titolata dal giornale «La nostra superiorità morale, solo un mito, non c'è mai stata». Questo è naturalmente un accenno a un altro discorso di Bersani di qualche giorno fa, dove appunto si parlava di questa superiorità morale, di una paventata macchina del fango che colpirebbe appunto il PD. Tutto parte poi dall'inchiesta su Penati, ex presidente della provincia di Milano, indagato per presunte tangenti, e infatti sopra l'intervista di Chiamparino il giornale appunto ci aggiorna sulla questione Penati. Così il sistema Penati favoriva le coop rosse, indagato per concussione degli esposti, vicepresidente della cooperativa delle coop, centrale il suo ruolo nell'assegnazione degli appalti. L'unità ha in prima pagina un editoriale del direttore Claudio Sardo. Rischio per l'Italia. Devo dire, sull'unità non c'è traccia di questo esercizio di autocritica. Il titolo è Crisi, un alieno in Parlamento, e la foto è di Berlusconi accompagnato da Marchionne che entra in macchina, perché ieri c'è stato questo intervento di Marchionne a cui Berlusconi non ha reagito bene, perché Marchionne avrebbe detto in un altro posto il premier si sarebbe già dimesso, e Berlusconi avrebbe detto ai suoi, e poi la cosa è trapelata anche su molti giornali, quindi molti credo l'abbiano sentito, che Marchionne è un ingrato. Vi segnalo da Italia Oggi il piccolo editoriale di prima pagina, si chiama Diritto e rovescio, non è firmato, ve lo leggo perché anche in questo caso parliamo sempre dell'immagine dell'Italia, della crisi dell'Italia, e per inserirla un po' all'interno dello scenario globale, che è a sua volta uno scenario di crisi. L'ultimo numero in edicola di Paris Match, il più diffuso settimanale francese, ha dedicato ben 12 pagine al presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi. Non però nella sua attività di premier. Il titolo, Berlusconi e le Bunga Bunga, è esplicativo. Nel mondo oggi il cavaliere è conosciuto così, e così purtroppo anche il paese che lui rappresenta. In piazza Tiananmen a Pechino, dove 20 anni fa venne accolto da un ragazzino che diceva Italy Paolo Occi, voleva dire il calciatore Paolo Rossi, adesso si è accolti da Italy Bunga Bunga. Per questo sentire che se Tremonti lasciasse sarei io, dice Berlusconi, ad assumere l'interim dell'economia, fa venire i brividi. Questa era la prima pagina di Italia Oggi. Sul Secolo XIX, anche in questo caso che è il quotidiano di Genova, anche in questo caso il titolo è dedicato a Berlusconi, aperte virgolette, paese saldo anch'io in trincea, ma vi segnalo invece una notizia che c'è anche su altri giornali, ma non in prima pagina, che trovo veramente curiosa, ed è questa. Sul blindato contro le sosse selvagge, il sindaco di Vilnius in Lituania combatte in questo modo le infrazioni. Arturas Tsuokas, sindaco di Vilnius, capitale della Lituania, aveva una missione: sconfiggere l'arroganza degli automobilisti più ricchi, convinti di poter parcheggiare dovunque, dalle piste ciclabili alle strisce pedonali. E aggiungo io, un problema che non ha soltanto Vilnius, purtroppo. Per portarla a termine, questa missione, il sindaco girava armato, si fa per dire, di bicicletta e macchina fotografica. Per ogni auto fuori posto, uno scatto. Per ogni infrazione, un'immagine da mostrare, quasi in tempo reale, al prepotente di turno. Poi ha capito che la strategia non bastava, che certe guerre si chiamano così non a caso. Lui, che quando faceva il video reporter era stato nella Baghdad di Saddam Hussein, bombardata dagli Stati Uniti. Così è sceso di sella, si è dotato direttamente di un blindato, un BTR-80 di fabbricazione sovietica, lungo 7,60 m, pesante più di 13 tonnellate, aveva tutti i requisiti chiesti dal sindaco incattivito. Un giro per le strade della città, con telecamera al seguito, e via. Trovare lo strafottente di turno e schiacciargli l'automobile in una città piena di nuovi ricchi come Vilnius non è stato difficile. C'è una foto del sindaco che esce dal blindato mentre schiaccia una macchina, e all'interno ci sono anche altre foto, tra cui una divertentissima di uno dei proprietari di queste auto, che ha lo sguardo sconvolto perché vede da lontano la scena e cerca di avvicinarsi per capire cosa è successo, e naturalmente è troppo tardi, la macchina è schiacciata. Vi segnalo poi la prima pagina della Gazzetta, per restare sempre in temi un po' più leggeri. Come sempre in questi giorni ci sono le notizie sul calciomercato. Oggi il titolo è Galliani allarme, il calcio italiano da ristorante di lusso a pizzeria. Quanto è vero? È una provocazione del più titolato dirigente dei nostri club. Galliani naturalmente è il dirigente del Milan. Il primo problema rimane quello degli stadi. Se andiamo avanti così ci passeranno anche i francesi. L'attesa naturalmente naturalmente poi in tema di Milan e di Inter è per la partita di sabato che si giocherà a Shanghai nel famoso stadio costruito per le Olimpiadi, il cosiddetto Nido, uno stadio bellissimo che adesso è una, a proposito di stadi, è sicuramente un palcoscenico degnissimo per questa super sfida. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, stiamo scorrendo le prime pagine dei giornali dominate dalla cronaca, dai commenti all'intervento di Silvio Berlusconi ieri alla Camera sulla crisi economica. Siamo arrivati alla prima pagina dell'Avvenire, Italia solida, resistiamo, un virgolettato di Berlusconi, ci sono poi altre notizie in primo piano, come vedremo poi all'interno, l'Avvenire non è l'unico giornale a farlo, c'è molto spazio a questo decreto di ieri di un giudice, viene definito dall'Avvenire uno strappo giudiziario a Treviso, perché questo giudice vuole far rispettare le volontà di una donna che chiede di sospendere le cure. È una persona che è condannata a morte certa, di recente lo sappiamo c'è stata una legge sul cosiddetto testamento, sul fine vita, cioè sul diritto delle persone di lasciar detto che se condannate a una malattia, a una morte certa, possono lasciar detto di sospendere le cure. In Italia questo non è possibile, però questo giudice, e per questo l'Avvenire parla di strappo giudiziario, questo giudice ha invece imposto che le volontà della donna vengano rispettate. Ma dalla prima pagina dell'Avvenire, vi dicevo, volevo leggervi il mattutino di Gianfranco Ravasi. Come sempre Gianfranco Ravasi sceglie un brano di un testo, religioso no, e poi lo commenta. Oggi ha scelto un brano del Potere e la Gloria, un romanzo del 1940 di Graham Greene. Provava soltanto una delusione immensa, perché doveva andare verso Dio a mani vuote, senza aver fatto nulla. Gli pareva che sarebbe stato così facile essere un santo. Si sentiva come qualcuno che per pochi secondi avesse perduto l'appuntamento con la felicità. Le parole che abbiamo citato, scrive Ravasi, sono quelle del protagonista di questo romanzo, che è un sacerdote pauroso e ubriacone. E conclude Gianfranco Ravasi, per invece rendere gloria a sacerdoti che paurosi e ubriaconi non sono, ci sono preti che si comportano come altoparlanti di Gesù Cristo, non solo con le parole ma con i fatti. Altri invece hanno scelto la vita quieta, il tran tran, nessun nemico. Io dico, se un prete non ha nemici, non è un prete. Gesù crea una rottura tale che lo chiamano segno di contraddizione. Questo era Gianfranco Ravasi sulla prima pagina dell'Avvenire di oggi. Ma veniamo un po' alle pagine interne degli altri quotidiani o i supplementi. Vi segnalo oggi il supplemento del Sole 24 Ore, è l'ultimo numero prima della pausa estiva, poi si torna il prossimo numero è il 25 di agosto, quindi una breve pausa. È il supplemento Plus Case 24, è un supplemento ideato dal direttore del Sole 24 Ore Napoletano, una delle novità introdotte da Roberto Napoletano, è un dedicato al risparmio quando è legato alla casa. Infatti il sottotitolo di questo supplemento è Abitare, comprare, arredare, vivere e investire nel mattone. La copertina è dedicata a un'inchiesta di Cristiana Raffa che si intitola La metamorfosi del legno, dalle briccole della laguna veneziana che diventano oggetti di design all'utilizzo di banano, cocco, pupugna e siero di grano per realizzare mobili. Poi naturalmente ci sono, questo è diciamo la parte dedicata all'arredare e all'abitare, poi come sempre in questo supplemento che ha ben 24 pagine c'è tutto il resto, cioè come comprare e investire nel mattone. Questo era Plus Case 24, allegato ogni giovedì al Sole 24 Ore, questo è l'ultimo numero prima della pausa estiva. Ma parlavamo prima della vicenda di Treviso, ne parla anche il Corriere. In prima pagina c'è un commento di Isabella Bossi Fedrigotti, poi all'interno si continua con la cronaca e altri due articoli. Il titolo è appunto Il giudice è legittimo rifiutare le cure, lite sul biotestamento. C'è un piccolo intervista del Corriere a Livia Turco che dice la norma pasticcio sarà travolta da queste sentenze, e Dorina Bianchi del PDL, Livia Turco del PD, Dorina Bianchi del PDL, che invece ha appoggiato la legge sul biotestamento, le toghe facciano un passo indietro perché decide il Parlamento. Questo è purtroppo un problema che si ripresenta spesso in Italia, cioè viene varata una legge dal Parlamento, approvata, magari anche pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e poi dei giudici comunque danno ragione a chi non vuole rispettare quella legge. Dal Corriere della Sera vi segnalo uno studio che ha scovato e ha dimostrato con i numeri la formula del nepotismo delle università. Più di 4.500 omonimi su 61.000, record al sud è ingegneria. Questo è uno studio fatto da un ricercatore che ha calcolato i cognomi identici tra i prof per appunto dimostrare con i numeri questo nepotismo, che purtroppo è uno dei mali dell'università italiana e non solo dell'università italiana. Dal Corriere della Sera vi segnalo un articolo dalle pagine di cultura di Antonio Cariotti. Torna Spider-Man, è un nero ispanico e Tex riconosce la Sama di Carson, quindi le novità sui fumetti, perché sapete che il Spider-Man è morto e però adesso ritorna, avrà però appunto sotto la sua tuta da uomo ragno, è in realtà un nero ispanico, segno forse del multiculturalismo che è arrivato anche ai fumetti. Dobbiamo andare un po' in fretta perché non abbiamo più tanto tempo, avevo selezionato tante cose. Dalla Repubblica vi segnalo, l'ho trovata solo su questo giornale, la notizia che la Bocconi ha sospeso per un anno lo studente accusato di omofobia. Era uno studente, la Bocconi appunto, che aveva scritto delle cose irripetibili attaccando, insultando degli studenti appunto omosessuali della Bocconi, che sono riuniti in un'associazione che si chiama BEST, Studenti Bocconi Equal Students. È stato scoperto chi era, perché naturalmente l'aveva fatto anonimamente, di insultare queste persone, è stato scoperto chi era ed è stato sospeso per un anno. Questo lo ricordo a pochi giorni dal voto contro la legge sull'omofobia fatto dal nostro Parlamento. Sul tema della Somalia, anche oggi La Stampa ha una pagina intera. Roma manda un aereo di aiuti per le folle disperate a Dadaab, naturalmente la Somalia colpita da una carestia e dalla siccità dalle ondate di profughi, dai problemi legati alle persone che stanno scappando, perché appunto non hanno da mangiare, non hanno da bere. E tra l'altro in questo scenario si inserisce anche la guerra civile che tormenta la Somalia. L'Avvenire ha un approfondimento sull'emergenza in Somalia, il titolo è Siccità, la mortalità infantile cresce del 50%. L'altra grande notizia di oggi, che è su tutte le prime pagine dei giornali, è il processo a Mubarak in Egitto, l'ex presidente dell'Egitto che si è presentato al processo perché è molto malato, al processo in barella. Vi segnalo dalla Stampa un'intervista a Ladine Lazar, che è un giovane saggista che ha scritto una biografia di Mubarak, un punto di non ritorno e tremino gli altri despoti. L'ultima segnalazione che vi faccio dal Foglio, un'intervista a Francis Fukuyama, il famoso autore di un libro che si chiamava Lo scontro di civiltà. 10 anni dopo gli attacchi, Francis Fukuyama, che è quello che appunto scrisse La fine della storia e L'ultimo uomo, racconta la sensazione di fragilità che agita gli americani e lo spaesamento di Obama. In realtà volevo anche segnalarvi, ma non c'è più tempo, devo lasciare la linea a Irene, quindi Giulia, vi auguro. Per un frainteso senso del conflitto di interessi probabilmente hai dimenticato un articolo, l'ho trovato io, completo l'opera, perché a firma Giulia Crivelli, quindi con l'eleganza che ti contraddistingue l'hai saltato a pie pari, invece penso meriti una citazione sul Sole 24 Ore. Naturalmente la cancellazione del Lice crea un vuoto pericoloso, il titolo virgolettato, chi parla? Michele, grazie, ti ringrazio. No, non è tanto interessante le domande che ho fatto io, ma le risposte di Michele Tronconi, che è il presidente di SMI ma è anche membro del direttivo di Confindustria. È importante perché oggi c'è questo confronto tra governo, partiti sociali e Confindustria. Si parla appunto della cancellazione dell'ICE. Abbiamo letto in questi giorni, tutti i giorni, qualcuno che dice che la forza dell'Italia è l'export, che bisogna aiutare le esportazioni, che la nostra economia si salva grazie all'export. Ecco, poi l'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, che serve soprattutto aiutare le PMI che vanno all'estero appunto tra mille difficoltà, è stato di fatto cancellato. Era un carrozzone, andava riformato, questo ci spiega Tronconi, ma sospenderlo così appunto crea un vuoto senza sostituirlo con qualcosa. Con un colpo di spugna. E di un altro colpo di spugna altrettanto disinvolto parleremo anche alle 8:30 nel corso di 24 Mattino Estate, cioè i tagli alla spesa sociale. Molto disinvoltamente, con l'accetta, manca di fatto una politica che contrasta la povertà. È stato tagliato il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali,